A questo stadio sopravvenne un incidente. Essendogli venuta la necessità di spiegare un terzo ruolo, il marinaio abbandonò il suo posto. Lasciate che vi doppi a prua, compare, disse al vicino che si stava giusto abbandonando a un pacifico sonnellino. Lento e pesante, con certo qual grave incedere, si mosse in direzione della porta. Scese pesantemente lo scalino che portava fuori del rifugio e poggiò a sinistra. Mentre faceva il punto sulla sua posizione, Mr. Bloom, il quale aveva osservato che al momento di alzarsi aveva due bottigliette, presumibilmente di rum, sporgenti ognuna da una tasca, per uso privato delle sue aride interiora, gli vide estrarre una bottiglia e stapparla o svitarla, e applicandone il collo alle labbra, sorbirsene un buon sorso con gran gusto e un certo gorgoglio. L'incorreggibile Bloom, il quale inoltre sospettava perspicacemente che il vecchio malvone fosse uscito per una manovra connessa alla controattrazione di quella femmina, che comunque risultava sparita a tutti gli effetti, poté con un certo sforzo scorgerlo appena quando, debitamente rinforzato da quella impresa del puncino al rum, guardava a bocca aperta i piloni e le travature della linea di circonvallazione, con aria di non capirci nulla, poiché naturalmente era tutto cambiato di sana pianta dal tempo della sua ultima visita e di gran lunga migliorato. Una o più persone invisibili gli indicarono il Vespasiano per uomini, all'uopo eretto sul posto a cura dell'ufficio di igiene. Ma dopo breve lasso di tempo, durante il quale regnò il silenzio, il marinaio, passando evidentemente al largo, si scaricò lì più vicino, percependosi il rumore dell'acqua della sua stiva sul selciato qualche tempo dopo. La qualcosa svegliò evidentemente un cavallo del vicino posteggio. Uno zoccolo, comunque, batté in terra, in cerca di una nuova posizione dopo il sonno, e una cavezza tintinnò. Leggermente disturbato nella sua garitta presso il braciere di carbone ardente, il custode municipale, il quale, benché già al malpasso e vicino a finir male, non era altri nella cruda realtà che l'anzidetto Gamli, ormai praticamente mantenuto a spese della parrocchia, debitore di quella posizione temporanea a Pat Tobin, secondo ogni probabilità e verosimiglianza, in conseguenza dei suoi principi di umanità, poiché l'aveva conosciuto in passato, si voltò e si agitò nella garitta prima di ricomporre le membra in seno a Morfeo. Un esempio veramente impressionante di miseria nera, nella sua forma più virulenta, abbattutasi su un infelice di ottima famiglia e abituato fin dalla più tenera infanzia ai conforti di una casa decente, cui erano toccate ben 100 sterline all'anno di rendita, che quell'asino calzato e vestito aveva prontamente seminato di qua e di là. Ed eccolo là, che non sapeva dove batter la testa, dopo aver sollevato parecchio scalpore in città senza il becco di un quattrino. Egli beveva, non c'è bisogno di dirlo, e la cosa poteva ancora una volta servire da lezione, poiché oggi egli avrebbe tranquillamente potuto avere una bella posizione se, un grosso se però, avesse mai procacciato di guarirsi di quella sua particolare inclinazione. Tutti nel contempo stavano lamentando rumorosamente la decadenza del tonnellaggio irlandese, sia di piccolo cabotaggio sia di lungo corso, che era parte integrante dello stesso problema. Una nave di Palgrave Murphy era stata messa in mare al bacino Alexandra, il solo varo di quell'anno. È anche vero che i porti non mancavano, solo che le navi non ci si fermavano. C'erano anche naufragi su naufragi, diceva il tenutario, che era evidentemente au fait. Quello che voleva accertare era perché quella nave fosse andata a sbattere contro l'unica roccia della baia di Galway, quando il piano del porto di Galway era stato messo in discussione da un certo Mr. Worthington, o qualcosa di simile, eh? Andatelo a chiedere al capitano di allora, suggerì loro, quando si è fatto ungere il palmo della mano dal governo inglese per il lavoro di quel giorno. Il capitano John Lever della Lever Line. Ho ragione, comandante, chiese al marinaio che tornava ora, dopo la sua libagione privata e le operazioni successive. Quel degno uomo, cogliendo a volo la coda della canzone o piuttosto delle parole, Cominciò a ringhiare quella che avrebbe voluto essere musica, ma con grande vigoria una qualche specie di canto marinaro a seconde o a terze. Le orecchie acute di Mr. Bloom gli udirono espettorare probabilmente il tabacco, ed era proprio così, dal che era da inferire che lo aveva provvisoriamente tenuto in mano, mentre attendeva a bere e a fare acqua, e che lo aveva trovato un tantino acido dopo il fuoco liquido in questione. Comunque barcollò dentro, dopo la sua felice libagione cum potagione, introducendo con la sua persona un'atmosfera d'osteria nella soirée, cantando baldanzosamente, come un vero figlio di cambusiere. Biscotti duri come sassi, carne salata come il culo della moglie di Lot. Oh, Johnny Lever, oh! Dopo questa effusione, il temibile campione rientrò tranquillamente in scena e, riguadagnando il suo posto, affondò, più che non si sedesse, pesantemente sul banco all'uopo fornito. Scorticacapre, ammettendo che fosse lui, perseguendo evidentemente qualche suo fine particolare, stava esalando tutte le sue lagnanze in una enfatico-lamentosa filippica riguardo alle risorse naturali dell'Irlanda o qualcosa del genere, che egli descrisse nella sua prolissa dissertazione come il paese più ricco, nessuno escluso, della faccia del globo, di gran lunga superiore all'Inghilterra, con carbone in grande quantità, esportazioni annuali di carne di maiale per un ammontare di 6 milioni di sterline, 10 milioni tra burro e uova, e tutte le ricchezze pompate dall'Inghilterra, con i gravami imposti alla povera gente, che veniva continuamente salassata. E la carne migliore sul mercato se l'ingozzavano loro, e un sacco d'altre cose, sempre con la stessa veemenza. La loro conversazione di conseguenza diventò generale, e tutti concordavano che era un fatto. Si poteva far crescere qualsiasi cosa sul suolo dell'Irlanda, egli affermò. E c'era quel colonnello Everard, laggiù a Navan, a coltivar tabacco. E dove me lo trovate dell'ardo come quello irlandese? Ma il dì della resa dei conti, affermò in crescendo con voce ben ferma, monopolizzando interamente tutta la conversazione, non era lontano, ormai, per la possente Inghilterra, ad onta del potere del suo oro dovuto ai suoi crimini. Ci sarebbe stata una caduta, e la caduta più spaventosa della storia. I tedeschi e i Musigialli avrebbero pur detto la loro, egli affermò. I Boeri erano il principio della fine. L'Inghilterra di Principsbecco già barcollava, e l'Irlanda sarebbe stata la sua rovina, il suo tallone d'Achille, il che gli spiegò loro come punto vulnerabile di Achille, l'eroe greco, un punto che i suoi uditori afferrarono all'istante, dato che egli si impadronì completamente della loro attenzione, mostrando il tendine in questione sulla sua scarpa. Il suo consiglio a tutti gli irlandesi era: rimanete nella terra dove siete nati e lavorate per l'Irlanda e vivete per l'Irlanda. L'Irlanda, ha detto Parnell, non può fare a meno di uno solo dei suoi figli. Gran silenzio all'intorno sottolineò la conclusione del suo finale. L'impervio navigatore accolse, impavido, queste tetre novelle. Bisogna darci ben dentro per far questo, padrone, ribatté il rozzo individuo dal cuor gentile, palesemente un po' irritato, in risposta al truismo orora esposto. Alla qualdoccia fredda, in riferimento al crollo e al resto, il tenutario concorse, pur restando fermo sulle sue convinzioni. Quali sono le migliori truppe nell'esercito? Interrogò irosamente il vecchio veterano brizzolato. E i migliori saltatori e corridori? E i migliori ammiragli e generali che abbiamo? Ditemi un po'. Gli irlandesi, se si ha da scegliere, ritorse il fiaccheraio che assomigliava a Campbell, eccettuate le chiazze facciali. Giusto, incalzò con forza il vecchio lupo di mare. Il contadino cattolico irlandese è la spina dorsale del nostro impero. Conoscete Jem Mullins? Pur rendendogli atto delle sue opinioni come a chiunque, il tenutario aggiunse che non gli importava nulla di qualsiasi impero, il nostro o il suo, e che reputava qualsiasi irlandese il quale servisse quell'impero indegno perfino del nome. Poi cominciarono a volar tra di loro parole irate, e quando l'aria cominciò a scaldarsi, ambedue, inutile dirlo, s'appellarono agli ascoltatori che seguivano quella tenzone con interesse, purché non si perdesse tempo in recriminazioni e non si arrivasse a vie di fatto. In base a informazioni privatissime raccolte durante un certo numero di anni, Mr. Bloom era piuttosto incline a relegare quell'opinione nel campo delle solenni balordaggini, poiché, in attesa di quella final consumazione da essere o non essere devotamente desiderata, egli era pienamente a giorno del fatto che i loro vicini d'oltre canale, a meno che non fossero molto più sciocchi di quanto egli non credesse, tendevano piuttosto a celare la loro forza che non il contrario. La cosa faceva degnamente il paio con l'idea donchisciottesca da certuni sostenuta che tra 100 milioni d'anni la vena carbonifera dell'isola gemella sarebbe esaurita e se col passare del tempo questa ciambella fosse riuscita col buco, tutto quello che lui poteva dire personalmente al riguardo si era che, dacché una miriade di circostanze egualmente interessanti il risultato definitivo poteva verificarsi prima, era sommamente consigliabile nel frattempo tentar di cavare il più possibile dai due paesi per quanto agli antipodi. Un'altra cosa abbastanza interessante, cioè gli amori delle puttane dei marmittoni, per dirla senza peli sulla lingua, gli richiamava a mente che i soldati irlandesi avevano combattuto per l'Inghilterra tante volte quanto contro di essa. E forse di più, in effetti. Ditemi un po', perché? Perciò la scena tra i due, il tenutario autorizzato del posto del quale si buccinava essere o essere stato Fitzharris, il famoso invincibile, e quell'altro, ovviamente fasullo, a lui osservatore, studioso dell'animo umano, se mai uno ve ne fu, essendo gli altri meno a giorno del giochetto, richiamava forzosamente alla mente la solita storia dei due compari, supposto, cioè, che la cosa fosse predisposta. Quanto poi al gerente o tenutario, che probabilmente non era affatto quell'altra persona, egli, Blum, non poteva non sentire, e a buon diritto, che era meglio tenersi alla larga da gente come quella, a meno di essere un autentico citrullo, e rifiutarsi d'avere a che fare con loro e i loro sozi, come regola aurea di vita privata, essendoci sempre la probabilità che capitasse un tizio a testimoniare per l'accusa del procuratore della regina, o meglio del re, in questo momento come Dennis o Peter Carey, idea da cui egli decisamente aborriva. D'altra parte, poi, non aveva per principio nessuna simpatia per quella vita di violenza e di delitto. Pure, anche se queste inclinazioni criminose non avevano albergato nel suo petto sotto qualsiasi specie o forma, egli di certo provava, non poteva negarlo, pur rimanendo interiormente qual era, una certa quale ammirazione per un uomo che si era trovato a brandire un coltello, freddo acciaio, col coraggio delle sue convinzioni politiche, ancorché personalmente egli non si sarebbe mai potuto associare a un'azione del genere, roba dello stesso tipo di quelle vendette d'amore del Sud, averla o farmi impiccare per lei, quando spesso si dava che il marito, dopo alcune parole volate tra i due riguardo alla relazione di lei con quell'altro felice mortale, avendo lui fatto sorvegliare la coppia, infliggesse ferite mortali alla sua adorata quale risultato d'una liaison post-nuziale superaddita, affondando in lei il coltello. Finché non lo colpì il fatto che Fitz, soprannominato Scortica Capre, si era limitato a guidare la vettura degli effettivi autori del crimine e quindi non era stato, se le sue informazioni provenivano da buona fonte, complice effettivo in quell'imboscata, e questo d'altronde fu l'argomento principe con cui un certo luminare del foro gli salvò la pelle. In ogni caso, questa era veramente acqua passata ormai. E quanto al nostro amico, lo pseudo Scortica, eccetera, egli era molto evidentemente ormai persona la cui sopravvivenza non era più gradita. Avrebbe dovuto morire, o di morte naturale, o sia pure sul patibolo. Come le attrici, sempre serate da Dio, ultima definitiva comparsa sulle scene, e poi ti ricompaiono tutte sorridenti. Generose fino all'assurdo, naturalmente, piene di temperamento, neanche la minima idea di cosa voglia dire fare economia, sempre lasciare il certo per l'incerto. Similmente aveva un vivo sospetto che Mr. Johnny Lever si fosse alleggerito di qualche quattrinello nel corso delle sue deambulazioni lungo i docks. Nell'atmosfera congeniale della taverna Old Ireland, Torna Erin e così via. E poi, quanto agli altri, non era molto che aveva sentito gli stessi identici discorsi nello stesso gergo e raccontò a Steven come aveva messo semplicemente ma efficacemente a tacere il responsabile. Aveva preso ombra per qualcosa, dichiarò quella molto offesa ma tutto sommato equilibrata persona che m'ero lasciato sfuggire. Mi aveva chiamato ebreo e con molta veemenza e in modo offensivo. Allora io, senza staccarmi minimamente dalla realtà dei fatti, gli ho detto che il suo Dio, intendo Cristo, era ebreo anche lui e tutta la sua famiglia, come me, per quanto in realtà io non lo sia. Gli ho tappato la bocca. Una risposta calma fa sbollire l'ira. Non trovò più nulla da ribattere, come tutti poterono vedere. Non ha ragione, forse. Rivolse a Steven un lungo sguardo d'orgoglio, cupo e timoroso, che intendeva: sei dalla parte del torto, per la mite accusa che lanciava, con in più un'occhiata supplichevole, perché gli sembrava intuire in certo qual modo che non fosse tutto esattamente. Ex quibus, borbottò Steven in tono poco impegnativo, mentre i loro occhi conversavano uno a uno o due a due. Christus o Blum è il nome suo, oppure, se vogliamo, qualunque altro, secundum carnem. Si capisce? Proseguì patteggiando Mr. Bloom. Bisogna considerare le due facce della medaglia. Non è troppo facile stabilire regole rigide o preordinate riguardo alla ragione e al torto, ma c'è sicuramente posto per miglioramenti, benché ogni paese, si dice, inclusa la sventurata patria nostra, abbia il governo che si merita. Ma con un po' di buona volontà da ambo le parti, è molto bello vantarsi di una reciproca superiorità, ma perché non parlare dell'uguaglianza reciproca? Aborro la violenza e l'intolleranza sotto qualsiasi specie o forma. Non arriva mai a nulla, né impedisce mai nulla. La rivoluzione deve avvenire a rate. È una palese assurdità, e tale da saltare agli occhi, odiare della gente solo perché abita dietro l'angolo e parla un altro vernacolo nella casa vicina, per così dire. Quella memorabile e fottuta battaglia del ponte e la guerra dei 7 minuti, assentì Steven, tra Skinner's Alley e il mercato di Ormond. Sì, acconsentì senz'altro Mr. Bloom, avallando completamente l'osservazione. La cosa era giusta e stragiusta, e tutto il mondo era strapieno di cose del genere. Mi ha levato le parole di bocca, disse. Un guazzabuglio di testimonianze contraddittorie che sinceramente non si potrebbero neppur lontanamente, tutte quelle meschine dispute, a suo modesto avviso, che facevano fare cattivo sangue, dovute alla bozza della combattività o a una qualche ghiandola, mentre erroneamente si supponevano motivate da un punto d'onore o da una bandiera, erano in gran parte la solita questione di denaro che stava alla base di tutto, avidità e gelosia. Non sapendo mai la gente quando ci si deve fermare. Lanciano accuse, osservò ad alta voce. Si volse via dagli altri che probabilmente e parlò più da vicino, in modo che gli altri, nel caso che gli ebrei, soffiò in una parte all'orecchio di Steven, sono accusati di provocare rovine. Neanche l'ombra della verità, lo posso ben affermare. La storia la sorprende il sentirlo dire. Prova in maniera lampante che la Spagna decadde quando l'Inquisizione scacciò gli ebrei e che l'Inghilterra prosperò quando Cromwell, un farabutto singolarmente in gamba che sotto molti altri aspetti ha diverse cose sulla coscienza, li importò. Perché? Perché sono imbevuti dello spirito giusto, sono pratici ed è cosa dimostrata. Non voglio indulgere in... perché ella certo conosce i classici sull'argomento e poi ortodosso come ella è. Ma nel campo, per non toccare quello religioso o economico, prete è sinonimo di povertà. La Spagna, poi, l'ha visto durante la guerra, in confronto con la progressiva America. I turchi. È una questione di dogma. Per Perché se non credessero che si va dritti filati in cielo dopo morti, cercherebbero di vivere un po' meglio, almeno così penso. Sono i giochi di mano che servono ai preti per farsi il gruzzolo con delle scuse. Io sono, riprese con forza drammatica, un buon irlandese, almeno quanto quel rozzo individuo di cui le dicevo poc'anzi. E voglio vedere tutti, concluse, di ogni fede e qualsiasi classe, goder prorata di una bella rendita ragionevole, senza taccagnerie, qualcosa che si avvicini a 300 sterline annue. È questa una questione vitale da risolvere, è una cosa fattibile, è tale da cagionare un più amichevole commercio tra uomo e uomo. È la mia idea, se non altro, valga quel che vale. Per patriottismo è questo che intendo. Ubi patria! Anche noi abbiamo la nostra infarinatura dei bei giorni dell'alma mater vita bene, dove si può vivere bene. Questo è il senso, se si lavora. Al di sopra della sua tazza di imbevibile sostituto di caffè, ascoltando questa sinossi di tutte le cose in generale, Steven non fissava niente in particolare. Poteva udire naturalmente ogni sorta di parole cambiar colore, come quei granchiolini a ringsend di mattina, che frugavano furiosamente in tutti i colori di differenti specie della stessa sabbia, dove avevano una casa, laggiù in qualche posto, o almeno pareva. Poi guardò in su e vide gli occhi che dicevano o non dicevano le parole che la voce da lui udita aveva detto, se si lavora. Me non mi ci conti, riuscì a dire, alludendo al lavoro. Gli occhi si stupirono di questa osservazione, perché come lui la persona che ne era pro tem, il proprietario, osservò, o piuttosto fu la sua voce a farlo, tutti bisogna che lavorino insieme, è il loro dovere. Voglio dire, naturalmente, si affrettò ad affermare l'altro, lavorare nel senso più vasto del termine, anche il lavoro letterario, non per la sola gloria. Scrivere per i giornali, che è la via più battuta d'oggi, è un lavoro anche quello, lavoro importante. Dopotutto, per quel poco che posso sapere di lei, con tutto il denaro speso per la sua istruzione, lei ha tutto il diritto di rivalersi e di stabilire il suo prezzo. Lei ha esattamente lo stesso diritto di vivere della sua penna, perseguendo la sua filosofia, quanto ne ha il contadino. E che? Appartenete tutti e due all'Irlanda, cervello e muscoli, tutti e due ugualmente importanti. Lei sospetta, ribatté Steven, con una sorta di mezzo sorriso, che io possa essere importante perché appartengo al Faubourg Saint Patrice, detto per brevità. Irlanda. Io andrei anche più in là, insinuò Mr. Bloom. Ma io sospetto, interruppe Steven, che l'Irlanda debba essere importante perché appartiene a me. Che cosa appartiene? Chiese Mr. Bloom chinandosi, credendo forse d'aver mal compreso. Mi scusi, disgraziatamente non ho afferrato l'ultima parte. Che cos'era che lei, Steven? Palesemente di malumore, ripeté e spinse da parte il recipiente del caffè, o comunque lo si voglia chiamare, aggiungendo senza eccessi di cortesia: Non possiamo cambiare patria. Allora cambiamo argomento.